la vera forma delle nostre età, della nostra somma. Come annunciato poco fa, i nostri microfoni siamo riuscite a contattare Ona Rea, questa cantante e autrice appunto che avremo la possibilità di intervistare per quanto riguarda il suo ultimo lavoro come solista e il suo ultimo singolo in particolare. E diamo un benvenuto a Ona. Ciao Ona. Ciao, buonasera. Buonasera, eccoci. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Fa un po' freddino, ma tutto bene. anche qui, effettivamente. Senti, noi siamo molto incuriosite, oltre che dal tuo lavoro, anche dal tuo passato, in particolare un po' la tua formazione musicale, visto che comunque i tuoi brani hanno sì del jazz, ma anche una contaminazione rock, pop e blues. Sì, sono un bel casino, effettivamente. Quindi puoi parlare un pochino della tua formazione musicale? Allora, la mia formazione musicale ha origini abbastanza lontane, nel senso che mio padre è musicista, è jazzista, quindi ho sempre sentito molta musica a casa, anche se lui non c'era quasi mai perché stava sempre in giro a suonare, però l'ho sempre avuta nelle orecchie, soprattutto il jazz. E dopodiché, finito il liceo, mi sono subito iscritta in conservatorio e ho studiato jazz, canto jazz con Maria Pia De Vito e ho sempre ascoltato un po' di tutto, quindi diciamo che una mia priorità è sentirmi molto libera in generale, in tutto e soprattutto nel mio lavoro che ho scelto anche per questo. Certo, e senti, tu sei sia cantante, come ci hai appena detto, ma anche autrice dei tuoi testi, giusto? Quindi sei una cantautrice. Sì. E, da dove nasce l'esigenza di scrivere? L'esigenza di scrivere, anche quella nasce, non ho memoria di quando nasce, perché ho sempre scritto, anzi sinceramente mi ritengo quasi più scrittrice che cantante, perché ho iniziato prima a scrivere che a cantare. È un'esigenza, penso, di collegare degli stati d'animo che alle volte sembrano essere appunto staccati, e cercare di creare delle storie che diano un senso a quello che si sente, che si vede in giro. Certo. E tu scrivi sia in italiano che in inglese, giusto? Sì. Quale lingua preferisci, oppure le ami entrambe? Ma in realtà le amo entrambe, perché sono due lingue completamente diverse come approccio e dipende da cosa si fa, dal tipo di musica, dal tipo di melodia che si deve fare. Senti, invece, Ona, volevo chiederti qualcosa riguardo il tuo primo disco, che si intitola First Name Ona, che è uscito in realtà da un po', ma ti volevamo chiedere un po' di parlarci in generale dell'esperienza di questo disco, di come è stato produrlo, comporlo. Allora, cominciamo dal titolo, magari, nel senso che il titolo forse spiega anche un po' i contenuti. Allora, First Name Ona, nel senso che volevo creare un titolo che sembrasse un po' un nome in codice, è un po' autoironico, è un gioco di parole. E First Name vuol dire nome di battesimo, e il mio nome di battesimo è Ona, ed essendo il mio primo disco, è stato un po' il mio primo disco come autrice, in realtà, è stato un po' un battesimo. E Ona vuol dire unione in irlandese, e questo disco parla molto dell'importanza di accettare le proprie parti in contraddizione, del tenersi uniti dentro e anche all'esterno, quindi direi che è quasi un incoraggiamento ad essere davvero se stessi, ad accettarsi, oppure al contrario, ad accettare le diversità altrui per poi magari inaspettatamente anche la propria. Certo, e con chi hai collaborato per la realizzazione di questo disco? Ho collaborato con dei grandissimi musicisti, che ancora mi chiedo perché abbiano loro collaborato con me, però tra cui primo tra tutti Luigi Masciari, con cui ho scritto gran parte delle musiche, chitarrista, e Alfredo Paesciau al basso e Alessandro Marzi alla batteria, e poi mio padre che ha fatto qualche così improvvisazione qua e là venendo a trovarci in studio durante le registrazioni. Certo, senti, adesso noi vorremmo far ascoltare Fan, che è appunto l'ultimo singolo estratto dall'album per il quale è stato anche realizzato un videoclip uscito recentemente, lo scorso 29 novembre, e se vuoi tu rimani con noi e poi subito dopo il brano continuiamo con la nostra intervista. Va bene, okay. Va bene, grazie. Questo è Fan, On Area, a tra pochissimo. Sometimes I just turn blue, as if in a corner, as if to a different tune. You know, sometimes I just see you as such different people. Well, I'm trying not to come on and forget about your troubles. Listen, when I think over the things that I have lost, to have fun wasn't easy, your fun. You say it's going to pass, well I'm still talking to myself. To have fun wasn't fun. Please don't mind about me, I'm just learning that fun wasn't easier fun. You know sometimes I just turn blue, as if in a corner, as if to a different tune. You know sometimes I just see you as such different people. Well, I'm trying not to come on and forget about your troubles. Listen, when I think over the things that I have lost, to have fun wasn't easy or fun. You say it's going to pass, well I'm still talking to myself. To have fun wasn't fun. To have fun wasn't fun. To have fun wasn't fun. Please don't mind about me, I'm just learning that fun wasn't easy or fun. Un area fan è il brano appunto che vi abbiamo presentato finora, di cui vogliamo parlare anche con la diretta interessata. Appunto, come dicevamo poco fa, è uscito da poco un video, il videoclip di questo brano. Dunque volevamo chiederti un po' una qual è il concept di questo video, anche la realizzazione. Ma allora, il video viene da una mia idea ed è la storia divisa in due ambientazioni completamente diverse che poi però raccontano appunto la stessa storia. È un'ambientazione esterna e c'è la protagonista che intraprende un viaggio, e mentre invece l'altra è interna e la protagonista in una stanza e dipinge questa parete bianca, intraprende un viaggio più che fisico, interiore. In quella esterna la protagonista si sveglia vestita di nero a festa, quindi si dovrebbe intuire che abbia passato la notte fuori a fare baldoria, diciamo, con questa piantina, chiedendosi ma cosa ci faccio qui, cosa ci faccio qui con questa pianta in mano. C'è un po' questa scena strana. Subito dopo decide di andarsene e subentra, diciamo, la sua altra parte, che è un po' la sua vocina nella testa che non fa altro che parlare, creare problemi, e la lascia lì da sola in questo luogo incantato a parlare da sola in un certo senso. Lei invece se ne va e affronta i suoi problemi attraverso questo viaggio, perché poi comunque parla dei normalissimi alti e bassi della vita, decidendo poi alla fine di buttarsi in mare. Il mare rappresenta l'emotività, il mondo interiore, però lo fa comunque volontariamente, e ne esce finalmente contenta e soddisfatta di sé, mentre invece dall'altra parte lei dipinge questo muro bianco e decide di dipingere la parola fan in blu, anche lì come il mare, come le emozioni, che poi il blu può essere anche riportato a un'emozione un po' negativa in un certo senso, però fondendo queste due cose lei finalmente si sente completa in un certo senso. Certo, quindi una liberazione, una trasformazione, diciamo, della protagonista, che poi tra l'altro saresti tu la protagonista del video, sbaglio? Sì. Ok. Senti, ma oltre a First Name Ona, hai dei progetti paralleli, dei progetti futuri? Ma io adesso mi sto concentrando molto su questo. E nel frattempo suono in giro con altre formazioni, suono soprattutto jazz al di fuori di questo progetto, e quindi ci sono formazioni che si alternano, più libere. Certo. Perfetto, allora noi volevamo farti un'ultima domanda riguardo appunto il fatto che hai prodotto questo album, c'è modo di poterlo sentire live? Ci sono date in programma? Allora, adesso no, perché ci stiamo concentrando sulla scrittura del prossimo disco, che è già iniziata, però presto ne avremo, non appena finito questo momento di studio, ecco. Certo, e vogliamo ricordare all'ascoltatrice, agli ascoltatori, dove possono ascoltare la tua musica, se hai delle pagine social dove possono seguirti? Io sono su Instagram come Onarea, Ona.rea, e poi tramite la pagina Giando Music, che è la mia etichetta, e via Veneto Jazz, su Facebook, su Spotify, su YouTube, un po' ovunque, se si cerca si trova. In tutti i luoghi e laghi del web, insomma. Esatto. Allora Ona, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi ai microfoni di Fujiko Factory, e magari ci diamo grazie appuntamento per un'altra intervista in occasione magari di una data a Bologna oppure dell'uscita del tuo prossimo magari, disco. Magari, va benissimo. Grazie mille. Grazie. Buona giornata. Grazie.